Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E possiamo confermarlo, per l'ennesima volta, che siamo direttamente in estate. Dunque cominciamo anche questo appuntamento, come sempre, il sabato. Aspettiamo tutta questa settimana per confrontarci, io e voi, e l'opinionista estemporaneo che saluterò tra poco, sui fatti della settimana, con la possibilità di ritornarci con un pochino più di calma, anche se diciamo a volte accelero un po' la voce, la parlantina, perché naturalmente un'ora non è mai abbastanza per discutere di tutti i fatti di un'intera settimana. Però che cosa vi è rimasto più in mente anche di questi giorni? Il numero verde, ve lo dico da subito, se volete appuntarvelo, se state guidando, no, cercate di memorizzare, proprio fotografatelo con gli occhi e le orecchie, 800 24 00 24, numero verde 800 24 00 24. Cosa vi ha colpito in particolare? Tra l'altro vi sono altre piccole notizie nuove anche di stamattina, ma tanto per ricordarci, ovviamente, diciamo che ha pervaso tutta questa settimana la riforma del lavoro, perché un po' inizio settimana la ministra Fornero l'ha illustrata dopo che c'è stato questo verbale d'intesa, quindi non c'è stato il classico accordo firmato tra governo e parti sociali, no, la famosa concertazione come c'è sempre stata da anni a questa parte, ma un verbale, perché è rimasta una cosa un pochino aperta, nel senso, ha detto il governo e la ministra Fornero: noi trascriviamo le varie posizioni del governo, delle parti sociali, poi demandiamo tutto al Parlamento. Infatti questo accordo, si dice, salvo in tese, cioè vediamo poi il Parlamento come ne discuterà. Tra l'altro è un momento importante, cruciale questo, perché potrebbe esserci di nuovo, dopo un periodo così, diciamo, di apparente calma, di conciliazione eccetera eccetera, di nuovo lo scontro tra PD e PDL, in particolare su questo accordo, diciamo, di massima sulla riforma del lavoro. Poi sapete l'articolo 18, naturalmente al centro delle maggiori proteste, con la CGIL che già annuncia un pacchetto di scioperi, poi la strage di Tolosa, per andare invece sulla cronaca nera, altri corpi ritrovati nello scafo della Costa Concordia, ne mancano adesso all'appello 2. La Lega, che a Verona si ricompatta dopo tutti questi mal di pancia con Tosi, si è trovato un accordo per cui Bossi ha detto: va bene, lo sosteniamo con una sua lista particolare, però ci siamo noi della Lega che lo sosteniamo e altre 6 liste civiche. Le primarie a Palermo, che sono ogni volta una nuova sorpresa, c'erano state le primarie del PD, dopodiché sembrava che avesse vinto Ferrandelli, poi si sono fatti contro la Borsellino, verifiche per eventuali brogli, poi dopo i magistrati hanno detto no, allora ha vinto Ferrandelli, ora spunta Leoluca Orlando che dice: allora mi candido, e contro il candidato del PD, che alla fine sarebbe Ferrandelli. Tutta una grande confusione, insomma, perché Ferrandelli poi doveva essere sostenuto in realtà da sé, l'Italia dei Valori, cioè un gran casotto, se si può dire. E la benzina, che naturalmente non smette di correre, di arrampicarsi sempre più su, la morte di un grande poeta e sceneggiatore, Tonino Guerra. E poi vedevo anche che fra per esempio le varie polemiche che ci sono state questa settimana, a parte si continua a parlare giornalmente del tema dell'omosessualità, e mi fa piacere di avere come si può dire, non aperto, spalancato il dibattito dalla famosa puntata di inizio febbraio con Giovanardi sul bacio delle ragazze, è partita una gran polemica ed è servito evidentemente a continuare a parlarne, a trattare l'argomento nelle varie trasmissioni, sui media, insomma tutti i giorni, e direi che è una cosa buona, insomma, se si può raggiungere qualche risultato. Poi invece la famosa storia della maglietta con scritto, che ha fatto fare anche una gran figura a Diliberto, dei comunisti italiani, la signora Paola, che era quella che aveva questa maglietta con scritto la Fornero al cimitero, oggi sul Corriere dice: piango per quella maledetta scritta. Quindi insomma si è pentita e ha chiesto scusa, mi sembra che forse si possa chiudere qui la questione. Vedrete voi, 800 24 00 24, cosa ci conferma, dicevo, che anche questa settimana non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Il Big Ben, chi non lo conosce, no? L'orologio di Londra, persino il povero Tortora diceva: Big Ben ha detto stop, insomma è diventato un simbolo mondiale. Ebbene, potrebbe cambiare nome, abbiamo quella certezza, Big Ben è Big Ben, no, potrebbe cambiare nome, perché un parlamentare conservatore inglese ha proposto di chiamarlo Big Liz, cioè piccolo Elisabetta, insomma grande Elisabetta, cioè Big Liz, perché a giugno ci sarà l'apice dei festeggiamenti per i 60 anni del regno di Elisabetta, quindi il cosiddetto giubileo di diamanti. Lui ha proposto questa cosa, Io personalmente sarei contraria. Se fossi inglese direi quello che sia Big Ben, mi dispiace, magari con un secondo nome, ecco, un cognome, Big Litz, però Big Ben. Che ne pensate voi anche di queste cose, che sono comunque notizie concrete della settimana? 800 24 00 24, dopo anche questo ulteriore brusco colpo alle nostre certezze. Naturalmente ci rassicuriamo che anche questa settimana ci sono diverse donne ammazzate dai mariti, ex mariti, compagni, ex compagni, e avevo fatto un elenco ma alla fine poi mi perdo sempre perché sono tante. Una moglie uccisa dal marito nel Brindisino, da un pensionato, con una fucilata. E poi c'è stato invece un ragazzo che ha buttato la ragazza, la sua ex ragazza, dal viadotto, però sembra che anche se in gravi condizioni si possa salvare. Poi ieri a Roma è stato un pensionato di 72 anni che ha ucciso la moglie che dormiva, e poi tantissime altre cose, insomma, diciamo che non ci perdiamo mai, ecco, almeno questi punti di riferimento che rimangono sempre costanti. Ma signore e signori, chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? Filippo Ceccarelli. Buonasera, buongiorno. Sei un romanaccio, buonasera. Cioè, qui c'è un sole splendente a Milano, lasciaci questo sole, questa voglia di giorno, e tu già ci dici buonasera. Cioè, un modo così di già di congedare la giornata. L'immalinconimento della cronaca. Cominciamo subito. Malinconico, caro Filippo, poi tu sei così brillante, editorialista di Repubblica, Filippo Ceccarelli, e salvo intese ovviamente, salvo intese di l'opinionista estemporaneo di oggi, qualcuno non fosse d'accordo, è un po' tardi per dire che magari non è d'accordo per avere Filippo Ceccarelli oggi in trasmissione, però aggiungiamolo, va di moda, salvo intese. Formula misteriosofica che diciamo ci prepara a possibili sorprese inaspettabili, ecco. In effetti sono proprio curiosa di vedere che cosa succederà in Parlamento adesso, questo articolo 18, il PD che potrebbe sfasciarsi, no, qualcuno dice lo stanno sfasciando, si sfascia da solo, non è chiaro, basta vedere le primarie a Palermo. Però prima di inoltrarci in questo argomento, che è sicuramente quello centrale, anche se le ascoltatrici e gli ascoltatori sceglieranno naturalmente con assoluta libertà la notizia della settimana, volevo sottoporti alla prova del fuoco. Caro Filippo, io ti sottoporrò alcune frasi dette questa settimana e tu dovrai indovinare. Non so se nel caso cada la linea, se tu non dovessi indovinare, ma comunque ci proviamo. Va bene? Sei concentrato? Coraggio. Allora, attenzione. Chi ha detto la banda Bassotti di Monti, Alfano, Bersani, Casini? Boh. Non lo sai, ti trovo preparato. No. Dai, su, chi potrebbe dire queste cose? La banda Bassotti. Durace, no. No. Ma siamo nella Lega, siamo nella Lega. Sì, sì. Uno che, beh, uno insomma, che le sì, diciamo, io adesso. Vabbè, non ti devi giustificare. Non ho idea, però diciamo, se posso consentirmi, diciamo, le consento, sì. Il riferimento è alto, è alto. Sia è ad una letteratura infantile, diciamo, quella della. Dei fumetti, in commissario maniera. Basettoni, quindi, eccetera, eccetera. Insomma, è Calderoli. Comunque, si è Calderoli. Della regressione anche culturale che in qualche maniera il certo politico oggi esprime. Comunque, è Roberto parte. Calderoli, ecco, che è abbastanza originale, diciamo, nelle sue trovate settimanali. Poi, invece, anche qui è difficile questo, però io te le sottopongo lo stesso in modo da dare anche modo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di sentire alcune cose piuttosto furtine che sono state dette questa settimana. Per esempio, sul lavoro siamo pronti a un Vietnam parlamentare. Beh, questo viene dal Partito Democratico, sicuramente. Dall'Italia dei Valori, dall'Italia dei Valori. Anche se non si capisce, stanno insieme, stanno insieme. Sì, anche qui, diciamo, c'è un elemento di nostalgia. Mamma mia, io direi possiamo lasciarcela bene alle spalle, insomma, quel tipo di nostalgia. Poi, invece, ti devo dire, sono esaurita, lasciatemi andare. Laminetti? Chi è? No. È la Fornero che dopo aver illustrato la riforma del lavoro continuiamo a fare domande. Mi pare che però come esaurimento tenga diciamo, bene, no? Ancora abbastanza bene. Tenga ecco. Bene, sì, anche secondo me è resistente. Lasciatemi andare dove? Sì. Ma non lo so, in pensione non ancora, non credo la Fornero. E poi invece Castelli, te lo dico io, l'ha detto lui questa cosa, dice Napolitano interviene su tutto, ci manca solo che ci dica le previsioni del tempo. Secondo te Napolitano sarebbe in grado di dare le previsioni del tempo? È venuto un dubbio. Ma Napolitano è uno che quando fa le cose le fa molto bene, un po', diciamo, da questo punto di vista, un po' come il governo tecnico, pur essendo lui come i ministri tecnici, pur essendo lui proveniente da tutt'altra esperienza, è un po' un primo della classe. diverse, quindi è un uomo che se si applica può fare anche le previsioni del tempo, quindi tu dici. Anche evidentemente le previsioni del tempo. E questa è facile perché te la metto subito dopo, non ci sarà una valanga di licenziamenti ed è lui. Ma secondo te, anche se lui rassicura sul fatto che non ci sarà una valanga di licenziamenti, è bene secondo te avere comunque accanto un bel cane San Bernardo che non si sa mai può essere utile in caso di valanghe? Cane San Bernardo in caso di valanghe, antivalanghe di... Beh sì, insomma, qualche cosa devono inventarsi, non è che io mi accorgo che il paese sembra piuttosto scosso da questa ipotesi di articolo 18 che lascia mano libera. Tu che ne pensi, Filippo? Che ne pensi? Personalmente sono molto confuso, è una condizione per me abbastanza abituale, però insomma trovo che in tutto questo ci sia una grande incertezza, perché non intravedo possibili alternative a un corso di eventi in cui sostanzialmente l'intervento poi di una dimensione tecnica procede con una certa velocità, quindi non mi pare che sia forse neanche opportuno di rompere questo ritmo, però al tempo stesso sono anche personalmente spaventato, nel senso che il paese, almeno io parlo di me, insomma, venendo fuori da un periodo dove insomma, il potere era piuttosto trasparente, si capiva quello che voleva, Dici? Adesso siamo in una dimensione in cui c'è anche un filo di ipocrisia, mi pare di capire, per cui in un paese come l'Italia alcuni principi sono giusti, però poi tutti noi sappiamo che nel momento in cui poi si vanno ad applicare c'è chi ci marcia, c'è chi ci vuole guadagnare, e da questo punto di vista uno ha l'impressione che, così come i professori, così come Monti presentano le cose, poi nell'applicazione pratica potrebbero andare in un modo diverso. Cui alla fine diciamo uno ha una dose di diffidenza, di scetticismo. Quasi, in qualche maniera necessitata. Io poi ti farò delle domande, caro Filippo, perché io, a parte questa confusione che dici tu, bisognerebbe andare avanti, sì, si è innescato, diciamo, magari un circolo virtuoso per certi versi, però bisogna vedere dove si va a parare. Io proprio ho delle domande su alcuni punti di questa riforma, che sarà la mia ignoranza, sarà incompetenza, non ho ancora compreso. Sentiamo per esempio Mario da Novara all'800240024, se mi dice giusto il tuo argomento, Mario, perché abbiamo la viabilità, come mi dice Valeria Bernardi della parte tecnica, mi confermi, Valeria? Cioè, buongiorno, buongiorno. Mario, buongiorno, dimmi solo sarò un argomento. Sarò rapidissimo. Sì. Io volevo soltanto chiedervi una cosa, ma come mai questo articolo 18 prevede i licenziamenti per i privati e non per quelli pubblici? Semplicemente questo, perché lì fondamentalmente magari qualcosa si trova da poter licenziare, visto che sono le cose che fanno vedere alle Iene, eccetera, eccetera, tutto qui. Va bene, Mario, è una buona domanda, diciamo, questa, al di là del settore pubblico, non bisogna scagliarsi per forza, però uno può dire perché effettivamente riguarda solo il settore privato e non quello pubblico, anche se in questi giorni la ministra Fornero ha detto, sì, per il momento non ce ne siamo occupati, probabilmente magari prossimamente in qualche altro confronto, che qualcuno conclude dicendo, sì, vuol dire che non se ne parlerà più, però staremo a vedere. Prima di chiedere a Filippo Ceccarelli, opinionista estemporaneo di oggi, che ne pensa di questa domanda, io ti volevo fare un'altra domanda piuttosto importante, Filippo. Io qualche giorno che provo a immedesimarmi nella situazione, dico, ma come farà? Come farà? Il sindaco Emiliano, no? Di questa polemica di appalti, corruzione, ancora tutta da verificare, per il momento non è indagato, no, Filippo? Però con questa vasca piena di pesci e di cozze pelose, mi chiedo, uno, come si fa a fare il bagno? Che già a volte quando c'è un capello ti fa un po' schifo, dici, non ci voglio fare. Tra tutto questo come farà a farsi il bagno? È una storia... No, fortemente evocativa, nel senso che oceani, vasca, abissi, già la cozza pelosa, diciamo, richiama elementi per certi versi rivelatori, no? Poi dopodiché questa idea della vasca da bagno è il colpo definitivo, che in realtà secondo me un altro elemento così in qualche maniera che aggrava la condizione del sindaco di Bari è come è fatto lui, cioè fisicamente. Cioè non c'entra nella vasca, vuoi dire, ci sono già i pesci? Di una robusta costituzione, la barba è grosso, c'ha il vocione, e questo aspetto qua funge da detonatore di tutta una situazione. Cioè nel senso che uno che mangia tanto pesce, qui chissà quanto ne ha nella vasca. Poi magari non mangia, però è una situazione questa della comunicazione oggi, per cui le immagini hanno una potenza... Quindi risulta più antipatico perché è grosso. Ma non è neanche antipatico, anzi, più buffo. Pare che quello che poi sta facendo è quasi fa pure pena, nel senso che poi dice io sono un fesso, Non abbandonatemi. Ormai è una condizione di prostrazione che quasi ispira pietà, insomma. Dico. Però al di là di tutto dà l'idea di un indizio per certi versi proprio ottico, visivo, per cui uno così non può che fare questo, no? E per cui naturalmente questo è ingiusto, è semplificato, è grottesco, ma l'aspetto più ricorrente nelle vicende italiane è questo della commedia. Siamo dentro una commedia, sembra una scena di un film, questo che arriva il pesciarolo col pesce. Senti, è uguale commedia. Ce la metta là, insomma, con la ragosta che scappa. Ma Filippo, è uguale commedia, per esempio, alla regione Lombardia, che ogni settimana viene fuori un indagato, un più indagato, in momenti che non. Anche lì è una commedia, lì. Sì, insomma. Senti, io che ho detto Pirla, Formigoni, adesso senza io. Mi rendo conto che è una tesi forzata o comunque che privilegia l'aspetto estetico o la suggestione, però insomma rispetto ai problemi veri che poi esistono e che coinvolgono la vita dei cittadini eccetera, però mi consento anche di dire che il personaggio Formigoni, cioè il rappresentante, il governatore celeste, come pare che lui si faccia finisca in qualche maniera chiamare, è buffo, è un altro personaggio da commedia, basti pensare a come si veste o come si vestiva, perché adesso mi pare un pochino ha avuto un periodo floreale, un periodo floreale intermedio, poi adesso si è ritornato con la cravatta correttore, la maglietta di Paperino, le cose, quindi è in qualche maniera anche quello sembra un personaggio di un film. E allora fermiamoci, come Emiliano fa ridere come un personaggio sua di un film. Quei pesci le che cose italiane hanno un aspetto, cioè sulle vicende italiane, cioè sono grottesche, come l'ala nera della commedia. Sono grottesche. Senti, sentiamo, continuano a telefonare naturalmente al numero verde 800 24 0024, Dino da Torino. Dino. Buongiorno signora Giordano. Ciao Dino, non mi chiamare signora se poi ti prego. Va benissimo, ciao. Grazie. Volevo fare riferimento a un articolo che ho letto sul quotidiano Il Sole 24 Ore di due giorni fa che non è stato riportato da alcun altro media. Praticamente un paio di giorni fa il governo portoghese e quello spagnolo si sono accordati per la cancellazione definitiva dell'alta velocità tra Lisbona e Madrid. Quindi praticamente il famoso corridoio 5 da Lisbona a Kiev, morto e defunto. Le motivazioni sono state da parte dei due governi: soldi non ne abbiamo, non vogliamo fare ulteriori debiti per qualcosa che non serve ai nostri cittadini, quindi definitiva cancellazione di quella parte del corridoio 5. Hai letto proprio così, Dino? Perché a me è sfuggito, non riesco a leggere proprio tutto. Marzo. Io spero che il governo italiano, con un po' di saggezza, un po' di riflessione e anche un po' di umiltà, si rende conto che siamo esattamente nella stessa situazione. Soldi non ce ne sono. Fare ulteriori debiti, oltre tutti quelli che già abbiamo, per un'opera che non serve, perché qui c'è una ferrovia che funziona, un'autostrada che funziona, collegamenti che funzionano benissimo di fronte a un traffico merci e passeggeri che sta scendendo alla grande. Quindi assolutamente bisogno di quest'opera, perché spendere 20 miliardi di noi cittadini, perché volevo fare solo un'ultima riflessione, quando si parla arrivano i contributi dall'Europa, ma i contributi dall'Europa non sono soldi che arrivano da Marte, sono soldi dei cittadini europei. Proprio di Marte, dobbiamo il collegamento tra poco, l'hai nominato. Di cui praticamente il 20% dei soldi cosiddetti dell'Unione Europea arrivano dai cittadini italiani. Una parte, sì. Dino, ti ringrazio, così hai tirato anche dentro un altro argomento che, diciamo, è stato molto dibattuto nelle scorse settimane, ma rimane sempre lì, no? Qualcosa è cambiato, nel senso che si è chiuso il buco, oppure non si è fatto, oppure si è deciso di... Che ne pensi, sinteticamente, Filippo Ceccarelli, di questa cosa? Perché mi avvertono che c'è il collegamento interplanetario tra pochissimo, abbiamo, sai, il satellitare un po' in difficoltà. Sì. Mi è piaciuto, penso che mi è piaciuto quello che ha detto Dino, soprattutto per una parola, freddezza, con un po' di freddezza ha detto effettivamente la vicenda va decongestionata, è possibile che in qualche maniera questa cosa vada risolta, però quello che è importante è che abbiamo superato un momento in cui si era tutto in ebollizione, anche un po' pericolosa, uno apriva i telegiornali e si vedeva queste scene spaventose. Questo sì, ma adesso che si fa? Perché qualcosa io penso senso che debbano farlo, debbano però in qualche maniera convincere la gente a farlo, quindi se questo serve a risparmiare, se serve un po' più di tempo lo si faccia, se serve trovare un po' più di soldi li si diano, e qualche compensazione toccherà inventarsela da quelle parti. Credo che l'idea però di arrivare in treno da Torino a Parigi in poco tempo sia un vantaggio anche un po' per tutti, insomma, che se l'Italia si unisce di più alla Francia è una condizione buona per il paese. Immagino tutto questo passaggio di formaggi e di vino, ma adesso abbiamo appunto questo collegamento, l'unico al mondo, che avviene in questa trasmissione. Riflessioni da Marte. Subito, in prima battuta, seduta, stante, istantaneamente va detto che da quassù, da Marte, osservando col telescopio il globo terracqueo, si è visto un gran tramestio, o meglio un lavorio assai febbrile sull'italica Terra. Le magnifiche sorti e progressive dello stivale stanno cambiando, in vero, con la rapidità di un treno, come si diceva, ad alta velocità. E si scopre che tante paure sono in realtà soltanto banali pregiudizi, via. L'italica popolazione teme ormai di andare in pensione quando le astronavi prenderanno il posto delle automobili? Ma no, che esagerazioni! Proprio in questi giorni, invece, è andata in pensione una vecchia, onorevole conoscenza degli italiani, che si pensava sarebbe stata operativa a vita, invece è andata in pensione dopo 40 anni di onorato servizio. La Concertazione. Di contributi del resto ne ha dati tanti l'egregia Concertazione, e a questo punto l'italico governo ha decretato nel giro di poco il suo pensionamento. Quindi, come vedete, non è vero che giungere alla pensione è quasi come salire al 123° piano di un grattacielo senza ascensore, ci si potrebbe arrivare stecchiti. E c'è, a dire il vero, un'altra celebrità, la più amata degli italiani, che va in pensione. Anche se si vocifera che sia andato talmente tanto in pensione da essere proprio del tutto perito. Dicevo, l'altra celebrità italica che va in pensione è il Posto Fisso. Già, un addio commosso dei tanti che gli hanno voluto bene e di quelli che avrebbero voluto conoscerlo meglio, quantomeno incontrarlo almeno una volta. Con tanto struggimento è avvenuto questo saluto che, in effetti, più che un pensionamento sembra più realisticamente un funerale. Ma la speranza, come si dice sulla Terra, è sempre l'ultima a morire, soprattutto pare per chi ha fede. Ambite voi, dunque, comunque, quantunque, al Posto Fisso, nonostante pare sia stato definitivamente congedato? Volete un contratto a tempo indeterminato, un reddito garantito e una vita appassionante? Diventate preti. Questo è il messaggio serissimo lanciato su internet dalla Chiesa spagnola, corto di vocazioni, in un paese dove la disoccupazione giovanile è al 50%. E seppure le donne, come al solito, ne siano state escluse da questa opportunità, via, è pur sempre uno spiraglio di luce. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che tutto va bene. Eccoci ancora insieme, brevissima pausa, diciamo, persi diciamo così tra i pianeti, ma ritorniamo con i piedi per terra e sentiamo Antonio da Milano. Che ci dici, Antonio? Oh, buongiorno dottoressa, e buongiorno al suo ospite e a tutti i radioascoltatori. Mi puoi chiamare anche Roberta, grazie Antonio. Va sì. Bene. Niente, io volevo ritornare sulla questione dell'articolo 18, sì. Perché ho un piccolo dubbio e volevo sapere se qualcuno di voi o il suo ospite o anche chiunque me lo possa derimire. Nel senso che si è parlata di manutenzione, di ristrutturazione, di ammodernamento del mercato con l'articolo 18 per la flessibilità in uscita. Sì. A questo punto però io mi chiedo, i licenziamenti per motivi economici devono essere obbligatoriamente semplicemente risarciti, ancorché il giudice si renda conto che non è un licenziamento per motivi economici. Cioè, mentre adesso il giudice stabilisce che il licenziamento è ingiusto ed è obbligato alla reintegra, col licenziamento economico è obbligato semplicemente all'indennizzo. Parafrasando, quello che è successo agli operai di Melfi, se ci fosse stata questa nuova regola, non sarebbe stato un palese licenziamento discriminatorio, così come è uscito fuori dalle motivazioni. Ecco, scusa, allora, visto che sei andato su questo argomento, Antonio, chiariamo a chi magari non avesse visto ieri questa notizia, cioè sono uscite le motivazioni della sentenza di Melfi sui tre lavoratori della Fiat di Melfi che erano stati licenziati, la sentenza ha previsto il reintegro nello stabilimento di Melfi della Fiat, le motivazioni sono arrivate ieri, cioè dice la Fiat voleva liberarsi di loro perché sono dei sindacalisti, quindi dici, pronto? I loro diritti. Antonio, mi hai sentito? Sì, certo. Ah, certo. Dimmi pure, sì. Erano dei sindacalisti con un atteggiamento antagonista ancorché esercitassero i propri diritti. Ma tutto questo il giudice ha potuto decretarlo perché esiste la vecchia formulazione dell'articolo 18. Con la nuova formulazione, e qui sorge un grosso dilemma. Io l'altra sera in TV sentivo un giurlavorista della Bocconi, che è la stessa matrice da cui deriva il Premier, a cui è stata posta una domanda molto, molto semplice. È stato detto, ma secondo lei potrebbe essere un sistema da parte delle aziende con licenziamenti per motivi economici di liberarsi di persone anziane che costano per far entrare persone giovani? E questo giurlavorista, che aveva un 30-35 anni, ha risposto, c'è il rischio, una maniera molto elegante di dire sì. E io direi di stare molto attenti su questa cosa, anche perché è un principio giuridico e credo che al di là della dichiarazione della CEI che i lavoratori non sono merce, su cui sono perfettamente d'accordo, se si rischia di stravolgere questo sistema, io credo che veramente si vada incontro a situazioni estremamente difficili. È una cosa molto importante che secondo me dovrebbe essere presa in considerazione, tenendo conto che, parafrasando il collegamento su Marte, è vero che il posto fisso non esisterà mai più, perché anche i nuovi contratti a tempo indeterminato, se viene messo in vigore questo nuovo regolamento... Ah sì, vale anche per chi? Per i lavoratori che sono entrati a tempo indeterminato prima di questa riforma? Sì, sì. Ma... Se viene messa in piedi questa nuova formulazione dell'articolo 18, anche i tempi determinati lo sono semplicemente sulla carta, sì. Perché comunque per motivi economici potranno essere mandati via. Sì, questo è vero, Antonio. Staremo a vedere, insomma, già i sindacati ne dibattono, anche la stessa CISL che all'inizio aveva espresso il proprio consenso a questa riforma, su questo aspetto invece comincia a frenare. Poi naturalmente adesso ci sarà, come dicevamo all'inizio, tutto l'iter parlamentare, capiremo un po' che modifiche, che possibili cambiamenti subirà questa riforma del lavoro. Intanto 800 24 00 24, il numero verde, mio opinionista estemporaneo di oggi è l'editorialista di Repubblica Filippo Ceccarelli. Ci aveva lasciato un ascoltatore, ci lasciamo adesso da un momento all'altro con le domande interrogativi degli ascoltatori. Antonio, caro Filippo Ceccarelli, intanto vi devo dare questa notizia che in Svizzera c'è stato un guasto a un impianto nucleare, è fuoriuscito del vapore che dicono non radioattivo, è solo a 450 km da Milano, così era un pensiero che non è venuto. Comunque, dicevo, Filippo, che ne pensi di questi dubbi, di questi timori, no? Sulla questione, diciamo che l'aspetto più dibattuto sull'articolo 18, ma anche questo punto, cioè quello dei licenziamenti per motivi economici, che non dovrà più essere un giudice a stabilire se sono economici o meno, sono economici e basta, e ci sarà soltanto l'indennizzo, non il reintegro. Cosa ne pensi? Penso che dietro ai dubbi e ai timori c'è una diffidenza in qualche maniera... Giustificata o ingiustificata? Giustificata dalla vita, che è complicata, che è piena di sorprese, che è quasi mai, che è faticosa, che già offre quanto basta per essere preoccupati anche, diciamo, in presenza dell'articolo 18. Quindi direi che pochissimi riescono a fidarsi, quasi nessuno si fida e pensano al peggio. E qui è in qualche maniera decisivo il ruolo della classe dirigente, nel senso che una classe dirigente credibile dovrebbe riuscire a infondere fiducia e speranza alla gente. Guarda Filippo, ti pongo un mio dubbio, al di là dell'articolo 18 ci sono alcuni aspetti positivi, poi va naturalmente approfondita, guardata bene, è un testo di 26 pagine se non sbaglio, questa è la riforma del lavoro, e c'è l'apprendistato per i giovani, l'eliminazione dei famosi stage, faccio lo stage però sfruttati senza essere pagati, varie altre cose, ma un dubbio che a me mi rimane, questo dei 36 mesi. Allora dicono noi eliminiamo il precariato perché facciamo in modo che dopo 36 mesi un lavoratore deve passare a tempo indeterminato, non puoi prorogargli all'infinito come si faceva prima il contratto, però io mi chiedo, allora l'azienda dice vabbè 36 mesi e io ti tengo fino al 32esimo, dopodiché ti lascio, poi ne prendo un altro, lo tengo fino al 25esimo e poi cioè, come io a questo punto forse l'ho capito, ma non l'ho capito. No, è esattamente, diciamo, tu hai molto semplicemente proiettato i dubbi e i timori che abbiamo toccato con mano nelle telefonate ad un altro comparto della legge che pure ha delle motivazioni giuste, e quindi tutti pensano in Italia, tutti noi pensiamo in Italia che ci sia sempre qualche trappola, qualche gabola, qualche impiccio, qualche magagna nascosta, eccetera. Questo è rientra probabilmente nel carattere. No, ma al di là della diffidenza, però, Filippo, questa dire, di 36 mesi è così. Se uno dice, beh, io allora questo qui per non doverlo assumere al 35esimo mese ti saluto. Diciamo, è chiaro, è come sul licenziamento per ragioni di discriminazione. Come Valla si a può dimostrare. Pensare che una azienda possa dire... Sai, caro lavoratore, noi pensiamo di fare a meno di te perché la tua fede religiosa non ci piace. Non ci piace. Oppure sei gay, visto che se ne parla tanto. È evidente che quindi è un quello che sta accadendo, quello che noi appunto misuriamo anche dentro noi stessi, nei nostri pensieri, eccetera, è la tipica situazione di un equilibrio che viene meno. Ora, la storia presenta con qualche ciclicità momenti nei quali gli equilibri vengono meno. È possibile che tutta questa storia, tutta questa vicenda della riforma del lavoro entrerà a ritmo tra 20 anni o tra 15 anni. Nel frattempo? Nel frattempo noi avremo tante ragioni per scoprire che quello che temevamo non si è verificato, così come invece quello che non immaginavamo si è verificato, tutto, si è verificato. Più o meno diciamo accadono cose di questo tipo, certo, però nessuno ci può togliere il diritto di non fidare, dubitare. Sentiamo Carmela da Roma se dubita o vuole parlare di tutt'altro all'800 24 0024. Poi c'è Marta Clara, poi c'è Edoardo, prego Carmela. Scusate che mi stiano collegando adesso, ok. Siamo collegati, eccoci qua, come collegati quasi da Marte, Carmela? Sì, pronto, sì, siamo qua. Con chi parlavi? Roberta. Con chi parlavi? Ecco, volevo... Scusa, Carmela, con chi parlavi? Sono Carmela da Roma. Sì, ma prima con chi parlavi? Con chi hai detto che c'era il collegamento? No, niente, scusa, stavo al cellulare. Volevo dire multitasking, sì. Per quanto riguarda l'articolo 18 e il licenziamento, che chiedo, sento sempre domandare... ma per il pubblico, per il licenziamento per il pubblico, volevo solamente ricordare molto rapidamente che per il pubblico le assunzioni non si fanno con colloquio, ma vincono un regolare concorso. E quindi è diversa la modalità di assunzione. Sì, può essere un motivo questo, Carmela, ma può essere una ragione sufficiente per dire uno che comunque il suo posto, lasciamo perdere i raccomandati che in Italia sono tanti, ma uno che se l'è guadagnato e che lavora bene, perché dovrebbe essere più suscettibile di licenziamento di un altro nel settore pubblico che pure ha vinto il suo concorso, ma lavora bene, anche diciamo a parità di merito, no? Carmela, sì. Può essere una ragione questa. È un dubbio, non la sto affrontando adesso la questione, non ho dei pregiudizi o delle convinzioni già sull'argomento. Cioè, okay. basta dire comunque che... Comunque sull'argomento c'è molto da studiare, da lavorare ancora. Carmela, tu sei una dipendente pubblica. Buon proseguimento, grazie. Grazie Carmela, preferito censurare, forse non ha sentito. Marta Clara da Padova. Pronto? Sì. Sono Maria Clara, no, Marta Clara. Maria Clara, mi sembra un po' complesso sì. Come allora, nome. No, io volevo dire che tutto quello che si sta ascoltando è tutta una realtà. però le battute della Lega mi fanno venire, no, il mal di stomaco, ma peggio ancora, perché chi ci ha portato dove siamo? Blatterano Padania, Padania Libera, e poi nelle ultime elezioni che adesso faranno a Verona, il grande Tosi, che è d'accordo con Bossi ormai, loro le dicono, poi alla sera non le dicono, hanno imparato bene da Berlusconi, allora cosa si vede? Che Tosi palludato dal tricolore. Io, guardi, non riesco più a capire dove siamo, e voi giornalisti qualche volta ci ridete sopra, c'è poco da ridere, in qualche altro paese Bossi sarebbe puntini puntini. Guarda, e i clown di prima sarebbero non so dove. Maria Clara, Maria Clara, sì. Resta, perché tu stai dicendo una cosa ed esce un'agenzia immediatamente in questo istante che ti vado a leggere, ci sei Maria Clara? Allora, questa agenzia dice: il segretario politico del PDL, Angelino Alfano, sino a prova contraria, ha sospeso in via immediata dall'attività politica del partito 14 esponenti di Verona che nei giorni scorsi avevano esplicitamente annunciato la loro intenzione di voler costituire liste d'appoggio all'attuale sindaco di Verona, Flavio Tosi. Quindi è arrivata in questo momento la notizia. No, ma è PDL, ma io dico la Lega no, all'interno della Lega, predica Padania Libera. Ma abbiamo capito che Padania Libera. Con la bandiera verde, i fazzolettini sì. Verdi, e poi si palludano col tricolore. E Tosi questa usa come scialle il tricolore. Sei stata chiarissima, Maria Clara, ti ringrazio. Questo è appunto, dice, l'incoerenza della politica, in questo caso della Lega. Però è importante questa notizia, cioè il segretario del PDL Alfano ha sospeso 14 esponenti del PDL di Verona perché nei giorni scorsi hanno detto esplicitamente daremo il nostro appoggio al sindaco di Verona. Sapete che si vota per le amministrative prossimamente a Verona, Flavio Tosi si è ricandidato, è un sindaco molto amato, sembra un grande consenso, tant'è che la Lega alla fine, seppur bisticciandoci all'inizio, se l'è tenuto abbastanza buono, diciamo. Ecco, questa è una notizia che arriva adesso. Che ne pensi, Filippo, di questa notizia dell'ultimo ora? Il lavoro che sta svolgendo Alfano è un lavoro difficilissimo e è complicatissimo. Questa della sospensione dal partito senza colpo ferire è un atto di decisionismo che serve in qualche maniera a dimostrare che lì dentro comanda lui. Ma approvi o non approvi, al di là del compito difficile di Alfano? Ma no, non mi riguarda. Non ti riguarda? Come ti riguarda? A me non mi riguarda Alfano, no? Sono figure che, diciamo, che osservo con una certa pretesa. Distacco, un certo distacco. Con distacco, ecco, lasciate in questo caso tecnico. Sono mondi molto lontani dalla mia esistenza, diciamo, di adesione, di approvazione o meno. No, però si può esprimere. Possono fare quello che gli pare questi qua, non è che mi coinvolgano. Certo, voglio dire, se dovessi scrivere di questa cosa, direi che la vicenda umana e politica di Alfano è complicatissima. Questo si è preso una specie di croce, la porta avanti. Un giorno addirittura Berlusconi dice che non c'ha storia, non c'ha quid. Non c'è poi il quid. Il giorno dopo gli chiedono che invece c'è sto quid, allora dopo lui oggi ha fatto la mossa, ha fatto la persona severa che fa, però poi in definitiva lì, come tutti i partiti, vivono una condizione ormai di essere prossimi a dissoluzione più insomma il sistema dei partiti non è che mi pare che grande consenso di grande salute. E poi vedremo anche appunto proprio con questa riforma del lavoro come procederà, come andrà a finire all'interno del Parlamento. Una settimana cioè, è arrivata anche questa notizia, guarda, proprio a fagiolo con la riforma del mercato del lavoro. Pensate che l'allenatore Ballardini del Cagliari è stato licenziato per giusta causa. Uno dice no, è stato esonerato. No, hanno ripetuto dal Cagliari, è stato licenziato in tronco per giusta causa. Rimane un assoluto riservo su questa giusta causa. Volevo leggere brevemente alcuni vostri messaggi, commenti su Facebook relativamente in particolare all'articolo 18. Antonella dice: io la penso come la Camusso, mi auguro comunque di sbagliarmi. Francesco dice: ma in democrazia le scelte non dovrebbero essere prese dai rappresentanti votati dai cittadini? Che titolo hanno questi che stanno decidendo per noi? Anche se poi appunto vedremo il percorso parlamentare. Massimo: l'abolizione dell'articolo 18 servirà soprattutto alle multinazionali per installare con meno timori o per non far chiudere i centri commerciali. Per gli imprenditori italiani, che prevalentemente sono medio piccoli e quindi al 90% sotto i 15 dipendenti, non gliene può fregare di meno. Comunque dice è una scelta che potrebbe creare qualche posto di lavoro, anche se il problema è di tassare i redditi bassi. Stefano scrive: ennesima manovra che tenta di fronteggiare la grave situazione, ma niente di positivo. Raffaele fa il caso, un caso personale: il punto non è tanto la riforma, come verrà applicata in primis dai datori di lavoro, in secondo luogo dai giudici. Dice: ma faccio il caso del mio personale. Dice: ho avuto un esempio in casa, mia moglie licenziata illegittimamente, dopo era integrata perché era ovvio che il licenziamento era nullo, ma nel frattempo 2 anni di calvario, di tribunali, di sentenza, di soldi spesi in avvocati. Danilo dice: l'errore di fondo a mio avviso è usare come un mantra la parola crescita senza se e senza ma, la legge del mercato globale che vede primeggiare le nuove economie dove i diritti sono ancora chimere. Daniela fa anche lei un caso personale, dice: non sono d'accordo con la riforma dell'articolo 18, ti racconto la mia esperienza, io sono un'invalida civile al 100%, ero iscritta così alle categorie protette nel 2001, venni avviata a un lavoro con una qualifica di concetto, sono chimica, ma invece l'azienda mi diede una mansione fisica che non era compatibile con il mio stato di salute, avevo un contratto a tempo indeterminato, dopo un po' di tempo ho fatto la malattia, rientro nell'azienda, mi volle licenziare, ovviamente mi opposi, feci causa, dice: sono passati ben 8 anni e ho optato per l'indennizzo, cioè rinunciando a un quarto perché non potevo aspettare altri anni. I tempi mi dicono corrono, e quindi è tempo anche di andare a sentire che commento ci farà di questa settimana la commentatrice del Corriere della Sera, Maria Laura Rodotà. A te, Maria Laura. Finché non ci licenziano. Io mi tengo stretta qui, mi sono fatta incatenare alla sedia. Vediamo. Un ottimo modo per licenziarci, cara Roberta, essendo giornaliste e chiacchierone, sarebbe fare come fanno alcune compagnie, diciamo nel mondo anglosassone, ma potrebbe succedere anche altrove, cioè per assumere o mantenere dipendenti chiedono la password per accedere ai loro profili sui social network. Ho visto, incredibile. Incredibile, ma già si stanno trovando modi, insomma, si sta trovando un equivalente social mediatico delle dimissioni in bianco che ora dovrebbero finalmente, in Italia, se Dio vuole, sparire, perché i datori di lavoro accedano. Ecco, devo dire che un modo che avrebbero gli editori per liberarsi di un sacco di giornalisti sarebbe accedere alle nostre password. Ma direi di sì, anche se diciamo sono lì, possono vedere palesemente anche quello che scrivono naturalmente ascoltatrici e ascoltatori, che sono sempre cose molto civili, quindi non credo, si mettono al passo coi tempi, diciamo, vogliono essere alla page, no? Anche coi social network. Grazie Maria Laura Rodotà, teniamoci grazie strette a voi finché possiamo. Ciao Maria Laura. E andando avanti, tra poco abbiamo anche un altro appuntamento immancabile, ma questa storia l'avete sentito del vice sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, il famoso sceriffo, che a proposito di una molestia molto pesante a una donna in stazione vicino dove era stata violentata pochi giorni prima un'altra donna, un uomo l'ha toccata abbastanza violentemente sul sedere, lui ha detto che sarà mai, altro che violenza sessuale, molestia, è una pacca sul culo, ha detto. E allora diverse associazioni femminili si sono molto arrabbiate, ma anche varie esponenti politiche, e anche un'imprenditrice si è molto arrabbiata, della CNA di Treviso, se non sbaglio, l'associazione imprenditoriale, sì, e ha detto, insomma, questa cosa è veramente vergognosa e avvilente, se avessero dato la pacca sul culo a sua moglie. Io direi che è sbagliato questo concetto, in realtà se l'avessero data lui, ma un bello macione però, perché dalle donne quando si riceve uno dice, beh, tutto insomma, no, un bello macione che avesse massaggiato le natiche al vice sindaco Gentilini, e magari anche un massaggio abbastanza, diciamo, energico sui gioielli di famiglia, magari l'avrebbe pensata diversamente. Ma abbiamo adesso un altro appuntamento immancabile per sapere che ne pensa, che esegesi fa di questa parola della settimana, che secondo me, cara Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, è pirla. Non ti offende se ti dico pirla? No, certo. Allora, vediamo la storia velocemente. Pirla deriva dal verbo pirlare, che è una variante di prillare, ma il significato originario era innocente. Significa girare come una trottola, però è usato nel settentrione per indicare una persona sciocca, goffa, sprovveduta, quindi anche facile da raggirare e da imbrogliare. Però attenzione, perché ha anche un significato molto più volgare, che qui non ricorderò e che tutti, almeno al nord, capiranno immediatamente. Ora, la questione è: a quale dei due significati, quello più innocente o quello meno innocente, si sarà riferito Formigoni quando ha dato del pirla al capogruppo capogruppo dell'Italia dei Valori Stefano Zamponi? Lasciamo il dubbio. Questo non lo sapremo mai, però per alleggerire la volgarità dell'epiteto preferisco chiudere, come sempre, in modo leggero, con una citazione da Eugenio Montale, il grande poeta dal diario del 71, che direi fa proprio al caso nostro. I pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stimma. Benissimo, noi non li informeremo, grazie allora a Valeria Della Valle. E invece in questi 34 secondi che ci rimangono, caro Filippo Ceccarelli, editorialista di Repubblica, ti volevo chiedere, Maradona si è incavolato in questi giorni, non diciamo per la sua evasione fiscale, ma perché Pelé ha detto: io sono stato come Beethoven per la musica, Michelangelo per la pittura, sai che c'è questa cosa, per la scultura, questa cosa, no, di antagonismo da anni. E lui dice: allora io sono Keith Richards e Bono degli U2, perché io ero la passione del calcio. La verità è che deve aver sbagliato medicina un'altra volta Pelé, perché Beethoven al calcio non si è mai ascoltato e tutt'al più annoierebbe. Per chi parteggi, molto brevemente, in questi due secondi che rimangono? Mi piace Pelé. Ci piace anche a me, forse Pelé. Mi piacciono tutte e due. Vorrei che lo facessero guerra. Quel salto che ci fece ai mondiali del 70, lasciamoci in aria per qualche minuto. Lasciamoci così, insomma, con queste immagini bellissime. Grazie a Filippo Ceccarelli, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.